Il re Salomone regnò dunque su tutto Israele. Questi erano i suoi alti funzionari. Azaria, figlio di Zadok, Sachia, figli di Sisa, scribi, Josafat, figlio di Achillud, araldo, Benaia, figlio di Ioiada, capo dell'esercito, Zadok ed Ebiatar, sacerdoti, Azaria, figlio di Nathan, capo dei prefetti, Zabud, figlio del sacerdote Nathan, amico del re, Achisar, sovrintendente del palazzo, Adoniram, figlio di Abda, sovrintendente dei lavori forzati. Salomone aveva poi 12 prefetti su tutto Israele, i quali dovevano provvedere al re e alla sua casa un mese all'anno per ciascuno. Questi sono i loro nomi. Il figlio di Cur, sulla montagna di Efraim. Il figlio di Decher, a Macaz, Saalbim, Bet-Semes, Ayalon, sino a Bet-Canan. Il figlio di Chesed, ad Arubot, aveva Soco e tutto il paese di Kefer. Il figlio di Abinadab aveva tutta la costa di Dor. Tafat, figlia di Salomone, era sua moglie. Baana, figlio di Achilud, aveva Taanach, Megiddo, fin oltre Jocmeam, e tutto Bet-Sean al di sotto di Israel, da Bet-Sean sino ad Abel-Mecola, verso Zartan. Il figlio di Geber, a Ramot di Galaad, egli aveva i villaggi di Jair, figlio di Manasse, in Galaad, il territorio di Argob nel Basan, 60 grandi città con mura e catenacci di bronzo. Achinadab, figlio di Iddo, a Macanaim. Achimaaz, in Neftali, anch'egli aveva sposato una figlia di Salomone, Bosmat. Baana, figlio di Cusai, in Aser e Zabulon. Josafat, figlio di Paruach, in Issacar. Simei, figlio di Ela, in Beniamino. Geber, figlio di Uri, nel paese di Gad, già terra di Sicon, re degli Amorrei, e di Og, re di Basan. Un prefetto stava nel paese. Giuda e Israele erano numerosi come la sabbia del mare. Mangiavano, bevevano e stavano allegri.